18 novembre 1940. Caro Mussolini, ti voglio rispondere immediatamente. Adesso che ho sentito ripetere questo tuo nuovo odiosissimo discorso, che comincia con una bugia e termina con una menzogna. Hai detto all'inizio che la data delle sanzioni segna una tua vittoria ed è invece, senza possibilità di equivoci, la tua più clamorosa sconfitta diplomatica. Tu stesso hai dovuto riconoscere nel corso del tuo discorso che la guerra d'Etiopia a cui sei stato costretto è la causa più profonda della guerra e dello sconvolgimento attuali. Non poteva dunque essere nei tuoi piani tutto ciò. Vanese o presuntuoso d'ingordo lo sei, ma non certo diabolico mefistofelico. Dunque, non poteva essere nei tuoi piani gettare l'Europa e il mondo nella più mostruosa delle guerre. Conclusione? Non hai vinto. Sei stato trascinato e travolto sia dagli uomini che dagli eventi. Mai concluso con una bugia più grande e più ingiusta. Non è vero che noi abbiamo già la vittoria in pugno, altrimenti non avresti dovuto confessare che ti ci vorranno dai 2 ai 12 mesi per sconfiggere soltanto la Grecia, altrimenti non avresti dovuto annunciare che questi sacrifici, ancora per noi tollerabili, dovranno diventare sempre più duri. I nostri soldati, il nostro popolo, deve soffrire ben più a lungo questa sua torturante pena di espiazione per averti così a lungo permesso di tiranneggiarlo. Ma vincerà, io ne sono convinta. Non so per quale misteriosa intuizione vincerà il popolo italiano. Non per opera tua, ma tuo malgrado. La tua stolta ambizione avrebbe dovuto mandarlo in rovina, eppure il popolo italiano si salverà per quella sua misteriosa e profonda forza di vita che non può consentire di morire a energie così fresche e rigogliose.